tempo dura quello che dura il tempo. Curioso elemento il tempo. Il tempo soffia quando soffia il vento, lo sai. Il tempo abbaia quando abbaia il cane. Il tempo ride se ti stai ridendo. Curioso elemento il tempo. Il bacio dura quanto dura un bacio, lo sai. Un sogno dura quanto dura un sogno, lo sai. Il tempo dura quanto dura il tempo. Curioso elemento il tempo. Il tempo soffia quando soffia il vento, lo sai. Il tempo abbaia quando abbaia il cane. Il tempo ride se tu stai ridendo. Curioso elemento il tempo. Penso dura lo che dura un beso. Un bacio dura quanto dura un bacio, amore. Un sogno dura lo che dura un sogno. Un sogno dura quello che dura un sogno. Il tempo dura lo che dura il tempo. Il tempo dura quanto dura. Las intenciones de...